In questi giorni ha avuto abbastanza spazio sulla stampa italiana un elemento che riguarda il caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo nel 2016. In questi articoli apparsi sulla stampa italiana si dà molto risalto ad una rogatoria internazionale che sarebbe stata scritta dalla Procura di Roma e che chiede la possibilità di interrogare la tutor accademica di Giulio, vale a dire la professoressa dell'Università di Cambridge che aveva la responsabilità di seguire la ricerca sul campo che Giulio stava facendo. Fin qui non c'è nulla di male, è giusto che la Procura della Repubblica, che sta indagando, ahimè senza successo, da 2 anni per cercare di capire chi ha ucciso Giulio e perché, ha senso e legittimo che chieda lumi anche all'università per la quale Giulio lavorava. Va detto che Cambridge era già stata sentita, i giudici italiani si erano lamentati della scarsa collaborazione, quindi questa rogatoria internazionale alla quale Cambridge ha già risposto di sì, quindi a breve dovrebbero esserci gli interrogatori, può dire qualcosa. La domanda che mi faccio è però la seguente: ogni 3-4 mesi, ogni 2-3 mesi c'è qualche articolo sulla stampa italiana che prova a spostare l'attenzione sul caso Regeni dal Cairo a Cambridge, come se la responsabilità della morte di Giulio Regeni andasse cercata non al Cairo, dove Giulio è stato ucciso, bensì in presunte macchinazioni spionistico-accademiche, mettiamola così. Andando nel concreto, c'è chi pensa che Giulio Regeni sia stato mandato a far la spia in Egitto per conto del spionaggio e controspionaggio inglese, oppure, nella versione più morbida, c'è chi dice l'università l'ha mandato a morire perché non hanno spiegato a Giulio che la ricerca che lui sarebbe andato a fare era una ricerca molto pericolosa che lo esponeva a una serie di rischi. Rispondiamo per ordine. Innanzitutto, quello di Giulio Regeni non ci sono le prove ancora giudiziarie, ma è un omicidio di Stato. Ad uccidere Giulio Regeni sono stati gli sgherri del generale Al-Sisi, che è il generale al potere in Egitto. Quali sgherri ce l'avevano con Giulio? Perché era un ficcanaso, perché ficcava secondo loro il naso in affari che non lo riguardavano, mentre in realtà Giulio stava semplicemente facendo una ricerca, e perché chiunque tra gli stranieri in Egitto si interessi della vita politica o sociale egiziana viene sospettato di essere una spia e quindi è un soggetto a rischio che va messo a tacere. Non c'è la prova provata che ad uccidere Giulio Regeni siano stati gli sgherri del regime, ma chiunque conosca l'Egitto, chiunque abbia provato a fare inchieste in questi anni sulla morte di Regeni e sulla situazione dei diritti umani in Egitto, sa che la sorte toccata a Giulio è la stessa toccata a centinaia, migliaia di egiziani che sono stati prelevati, torturati e uccisi dai vari servizi di sicurezza egiziani. Naturalmente questa è una verità storica per ora e non è una verità giudiziaria. Noi italiani siamo abituati, viste le stragi ancora impunite degli anni 70 e 80, siamo abituati al fatto che verità storica e verità giudiziaria possono non combaciare, e la Procura di Roma sta cercando in un certo qual modo, con difficoltà perché l'Egitto collabora con il contagocce, prova a depistare, non sto qui a ricordarvi i vari depistaggi che ci sono stati, la Procura ci prova. Quando si sposta l'attenzione dal Cairo a Cambridge si fa un'operazione molto sospetta, nel senso che avvalorare l'ipotesi che Giulio sia stato mandato a morire ovviamente serve oggettivamente a deresponsabilizzare il regime egiziano. Fino al 25 gennaio del 2016, la data in cui è scomparso Giulio, nessuno si sarebbe mai sognato di dire che fare ricerca universitaria in Egitto era un'attività rischiosa. In Egitto Egitto c'erano e ci sono decine e decine di ricercatori di tutto il mondo impegnati in ricerche accademiche che funzionano secondo il modello dell'osservazione partecipata, cioè non si lavora sui libri ma si va per strada, ci si cala in una realtà sociale per poterne trarre elementi di analisi di prima mano. Quindi Regeni è stato il primo a cascare in una trappola del genere, ma il fare ricerca in Egitto non era assolutamente una cosa così rischiosa come si tende a dire di tanto in tanto in Italia, e quindi in modo da far cadere quantomeno una parte di responsabilità sull'Università di Cambridge, né tantomeno si può accettare il sospetto che Giulio Regeni lavorasse per i servizi segreti. Giulio era un ricercatore dalla immagine immacolata e irreprensibile, sono state fatte indagini sui suoi conti correnti e non è mai risultato un versamento sospetto da questo punto di vista, e in ogni caso non si capisce neanche a cosa Giulio potesse servire per un servizio segreto. Quindi non capisco perché la stampa italiana periodicamente, da allora, dal gennaio 2016, ogni tanto sposta l'attenzione su Cambridge. Io penso che non ci sia nulla di sospetto in quanto è stato fatto all'Università di Cambridge, dove Giulio faceva il dottorato si doveva chiudere con una tesi sul campo. Giulio scelse l'Egitto perché era un paese cui aveva già soggiornato per motivi di studio, dove aveva dei contatti e quindi era più facilitato nel fare un lavoro. Quella tesi venne approvata da un consiglio accademico a Cambridge, quindi le responsabilità dell'affidamento non ricascano solo sulle spalle della sua tutrice, che è una tutrice egiziana, ma Lamarck è un personaggio molto conosciuto negli ambienti accademici perché ha al suo attivo diversi studi sull'Egitto. Nel tentativo di screditarla si dice era un'attivista politica anti-Al-Sisi e quindi aveva interesse a buttare Giulia allo sbaraglio. In realtà anche questo non è vero, nel senso che Ma è una ricercatrice, io ho avuto modo di conoscere, una professoressa molto stimata che ha lavorato molto sulla rivoluzione egiziana, si è guadagnata gli onori della cronaca con un libro importante scritto nel 2015, e è assurdo sospettarla di aver mandato Giulio allo sbaraglio. Quanto all'ipotesi che Giulio potesse lavorare con i servizi segreti, io trovo che sia un'infamia che non serve neanche commentare.